Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. In questo momento sto rischiando veramente, ma lo faccio per voi, di affrontare a viso aperto questo rischio. Di fronte a me, solo a distanza di due file di sedili, c'è la ragazza della testata. La ricordate la ragazza della testata? Era quella ragazza che raccontava di essere molto gelosa di un suo fidanzato, perché era convinta che un'amica comune fosse innamorata di lui. E lei insisteva, innamorata di te. E diceva, ma no, non è vero, non me ne importa nulla, non è vero. E lei insisteva, tanto che un giorno, nel tanto insistere che questa fosse innamorata, nel suo tirarsi indietro, dire che non se n'era mai accorto, non era vero, poi non gli interessava per nulla, lei gli mollò una testata. Su questa testata si capì che in realtà quest'uomo si era stancato di lei. Infatti poi alla fine si sono lasciati e lui si è rimesso proprio con la ragazza innamorata di lui. Io su questa idea non mi sono molto soffermato, molti mi hanno scritto, mi hanno rimproverato, ma ti rendi conto? Aveva ragione, lei era innamorata di lui, aveva ragione a dargli la testata, lui è un infame, vedi, si è rimesso con lei. Io ho un altro punto di vista rispetto alle gelosie irrazionali che prendono corpo e poi diventano realtà, però evidentemente, sfidando la testata, è giusto che faccia ammenda della mia trascuratezza, della mia superficialità e mi avvicini cauto e guardingo alla ragazza della testata. Tu hai dato una testata a un tuo fidanzato? Io ho dato una testata a un mio fidanzato perché lui sosteneva che questa ragazza, che secondo me era innamorata di lui, non lo era. Quindi c'erano due verità. Mica potrà dirti innamorata, stava con te. Oh, ovvio, ma io non è che dicevo che lui la ricambiava, io dicevo semplicemente c'è un fatto, questa è una cotta per te. E secondo me tanta, sta proprio una cotta e cottissima, ok? E lui mi diceva no, sei una visionaria, non esiste. Scusa, ma tu già gli lessavi le palle dicendo che era innamorata, se lui te lo confermava non viveva più, chiaro, diciamo. No, ma perché io non è che davo una colpa a lui, perché uno può essere oggetto di desiderio, di cotte, ma così, sai che già noia involontario. Una, sai già che noia una che ti dice a quella è innamorata di te, e uno dovrebbe dire ma che ti importa, lascia perdere. Ma se sei il mio compagno mi importerà, che dici? Ma no, se lui, per lui non contava nulla, che te ne importava? Ma neanche a me contava, però siccome beh, io già mi sono rotto le palle, allora, a sentirti, pensa lui. Ehi, hello, ok, siccome, vabbè. Siccome io sono, ti dicevo l'altra volta, un amante della verità, io volevo semplicemente che lui mi dicesse hai ragione, perché è una frase bellissima. Ma forse non aveva prove certe. Ma ce le avevo io. Tant'è che poi io e lui ci siamo lasciati per altre cose, per altri motivi. Per cosa? Dimmi un motivo. Ci siamo lasciati perché il nostro rapporto non andava avanti, non tutti si muoveva. Lo dicono, questa è la ragione. E non si muoveva. Cioè non ti sposava? Diciamo che più che sposarci magari non potevamo, prendeva un impegno serio con te? Non riuscivamo ancora a vivere nella stessa città, che non è una cosa. Ecco, tradotto in termini, non si accasava con te? Sì, non facevamo. Ma questo è il motivo per cui le donne lasciano sempre l'uomo. No, ma mi ha lasciata lui. Beh, perché tu avrai insistito, ma quando fai il passo? No, diciamo che c'è stato una causa scatenante. Allora, in realtà io e lui siamo stati insieme 4 anni. Beh, tanti. Il mio record, cioè il mio prima di quello per me era stato il massimo. Viveva in un'altra città. Io vivevo in un'altra città. Quindi vivevate una volta ogni settimana? No, anche al mese. Però per esempio d'estate stavamo sempre insieme. Vabbè, corrisponde a un normale rapporto di 6 anni, 8 anni. Esatto. Però questo succede coetanei, quindi non abbiamo più 20 anni. Allora io a un certo punto pensavo che magari avremmo potuto vivere insieme, fare un figlio, non dico sposarci, però diventare un po', diciamo, due adulti che stanno insieme. Dire a un uomo questo è come buttargli l'acido solforico sul pisello. Anche questo è vero. Ma come dite, il cappio al collo. Tiè! Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori. Comunque, causa scatenante è stata questa. Io sono stata invitata... No, noi due siamo stati invitati a un matrimonio in Spagna da una mia ex coinquilina di Belfast, perché io per un anno ho vissuto a Belfast. Elettrizzante come progetto, so. Andare al matrimonio di Belfast in Spagna. No, una spagnola che viveva a Belfast con me. Quindi, tra l'altro, che lui aveva conosciuto in un nostro viaggio in Regno Unito. Però era roba tua, lui che c'entrava. Ma siccome si sono conosciuti, allora lei ha detto: oh, ma che bello! Quindi, quando ci sposiamo, io e Pedro, tu e Cinzia, verrete in Spagna al matrimonio? E lui, certo. Quell'estate noi non siamo andati in vacanza perché dovevamo andare in Spagna al matrimonio. Tra l'altro, il matrimonio era esattamente la stessa data del nostro anniversario. Quindi, per il matrimonio della mia amica, noi avremmo festeggiato 4 anni di fidanzamento. C'era da toccare tutti i ferri del mondo. Quindi ci sarebbe stata, come dire, una coincidenza romantica, ok? Quindi una coincidenza terrificante. Tu gli avresti detto: guarda che carini, si sposano il giorno del nostro anniversario. E noi quando? Cioè, di fronte a questo uno scappa via a gambe levate. Quindi, diciamo, in netto, cose diciamo, non siamo andati in vacanza. Beh, era una trappola emotiva comunque. Quando dovevamo andare al matrimonio, lui, tipo un mese prima, ha iniziato a dirmi: non so se mi posso prendere le ferie, non so se riesco a lasciare il lavoro. Allora, il matrimonio era di sabato, cioè sabato, non mercoledì notte, ok? Quindi, cioè, non era una cosa difficilissima prendere un giorno. E quindi ha iniziato a farmi capire che forse magari non sarebbe venuto. E io stavo per rinunciare al matrimonio della mia amica. E potevi andarci da sola, scusa. E infatti poi sono andata. Allora, qual è il problema? L'amica tua, amica sua. Certo, io sono andata perché prima avevo deciso che non vado, rinuncio, e poi ho pensato no. Sai quando il cuore ti dice basta? Ma scusa, è un'amica tua, si sposava lei, lui poteva anche non averci voglia. Perché dovevi obbligarlo? Perché uno, non siamo andati in vacanza insieme. Due, e non c'aveva voglia di andare in vacanza due, con te. Due, lui era stato invitato da lei e lui non vedeva l'ora all'epoca di andare al matrimonio. Poi man mano questa cosa è scemata. Se vuole cambia, uno ci pensa e dice: ma che mi frega andare al matrimonio di questo? Tre, era un modo di festeggiare il nostro quarto anniversario, che non gli andava romantico, di a Cáceres in Extremadura, patrimonio dell'UNESCO. E non gli andava di festeggiarlo, può starci. Infatti, per lui non era una festa. Senti, ok. Il treno va. Bentornati a bordo. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Io intanto ho deciso di andare comunque, dopo aver prima pensato di non andare, poi ho detto no, io non rinuncio. Sono andata e sono andata da sola. Ho preso l'aereo, sono andata a Cáceres e lui chiaramente, cioè eravamo un po' freddini perché è come se mi avesse mandato a cagare, diciamo, ecco. No, non è così. Comunque, non è così. Comunque, nella tua percezione. Nella mia sua, percezione. Va al matrimonio dell'amica perché lei gli va, a me non mi va. Certo. Comunque sono arrivata lì e sono stata al matrimonio, che è stato bellissimo. Non ci scrivevamo, eravamo un po', come dire, in una guerra fredda. Allora lui a un certo punto mi scrive: lo so che sei arrabbiata con me, però almeno dimmi com'è stato, cioè com'è stato, se sei stata bene, com'è stato carino, il matrimonio, gentile. Voglio sapere solo questo, se tu stai bene, l'aereo tutto bene, perché sa che ha anche un po' paura dell'aereo. Le stai a cuore, quindi. E io gli ho detto una cosa che ho scoperto mentre gliela dicevo. Gli ho detto: allora guarda, in questi 4 anni in cui siamo stati insieme, tutti i matrimoni in cui sono stata, in tutti i matrimoni ho sempre visto nella sposa me e nello sposo te. E oggi per la prima no, scusa, ma no, è vero. È il treno, mi fai no, scusami, questi... ma tu di solito non è anche così. Anticipazione di conato. Allora, quando tu sei innamorato di una persona, no? Sì, e ti vedi un film, è automatico che tu. Sì, ma il lui, la donna, quando è innamorata di un uomo, vede subito l'abito della sposa. L'uomo no, l'uomo la vede sdraiata su un letto di petali di rose. Così la vede un uomo. Sì, ma non sto dicendo che io mi volevo sposare il primo giorno, però è chiaro, se tu sei innamorato di una persona, lo proietti in tutte le cose romantiche che vedi, nel film, nel libro, nella poesia, eccetera. Quindi nei 4 anni insieme, ogni volta che andavo a dei matrimoni e vedevo due che si sposavano, per me eravamo io e lui, sempre, no? Tipo Barbie e Ken. Per lui era come se una tenaglia roventata gli si prendesse ciò che c'ha di morbido sotto l'ombelico e stringesse. Esattamente così. Quindi, quando lui mi ha chiesto com'è stato il matrimonio, io lì ho capito. Ecco, io oggi per la prima volta non ho visto me nella sposa e te nello sposo. E lui mi ha detto: hai ragione. Quindi hai bisogno di qualcuno che ti ami come meriti. E mi ha lasciato via SMS. Beh, grande. Dalla Spagna. Bellissimo. Cioè dall'Italia alla Spagna. Beh, è un genio. Quindi io sono è andata in Spagna comunque, fidanzata, sono tornata single. Uno sempre si alza la mattina che è fidanzato e va a letto la sera che è single il giorno dell'ascito, sempre così. È l'ascito. Eh sì, è così. L'ascito fa pensare a una cosa economica, ma non è. Ma è l'ascito. Il l'ascito funziona così. Una persona molla l'altra perché si rompe le palle. L'altra ancora non lo sa, non legge i sintomi e vive nell'illusione che continui. Tu sei fortunata, anche lui è fortunato, perché sapendo che mandarti a quel matrimonio da sola significava ormai tirare la corda fino a che si rompesse, il giorno tu gli hai detto non vedo me, non vedo te in quel matrimonio, dice finalmente me ne sono liberato, vuol dire che ci vedrà qualcun altro e quindi finalmente può andare per la sua strada, che è fatta di matrimoni, di vallette, di preti, di bambini, di pannolini, di cacche da pulire. La sua era da un'altra parte. Eh già, si è emancipato da me. Ah beh, che problema c'è? E mi ha lasciata. Beh, tu l'hai lasciata. Lui mi ha lasciata con un SMS. Cosa ha detto? Mi ha scritto: hai ragione, tu meriti qualcuno che ti ami come meriti e che ti dia quello che ti serve, perché io non te lo posso dare. Eh sì, è quello che ti dava lui. Non ti scriverò più una cosa del genere. Servirà qualcun'altra probabilmente. Sì, adesso sta con un'altra, infatti, però adesso siamo... Quella che è innamorata. Quella della testata. Quindi nel frattempo forse aveva stretto, a forza di sentirsi dire innamorata. No, lui è una persona corretta, quindi questo non è successo. Però il fatto che stiano insieme conferma il fatto che io avevo sempre avuto ragione sul fatto che lei era innamorata di me. Sì, ma se tu stavi zitta, ti tenevi la lingua in bocca, lui magari manco se ne accorgeva, probabilmente. La verità rende liberi. Sì, ma sì, vabbè, oddio, che cazzata. Ma posso cantare Trenino va? Perché nulla questa... rende più liberi che la menzogna, se proprio vuoi saperlo. È l'unica cosa che ti rende libero, raccontare cazzate. E sì. Quando dici la verità c'è sempre un sacco di nemici attorno e soffri tanto. Probabilmente, io dico la mia tesi, lui nemmeno si era accorto di questa che gli andava dietro, perché era distratto, magari voleva bene a te o c'aveva altri problemi. A forza gli hai messo la pulce nell'orecchio, è andato a vedere le carte, era una bella acchiappata, gli piaceva, e questo ha determinato il fatto che non è venuto in Spagna con te. Mentre tu andavi in Spagna, sognavi le vallette e ti crogiolavi nella sua delusione, lui aveva realizzato il suo sogno momentaneo di rapporto amoroso con questa che era innamorata e l'avrà fatto a pezzi, a striscioline, visto che finalmente dice: come mai questo non si è mai accorto di me? Improvvisamente si è accorto che gli vado dietro. Dice: perché me l'ha detto la fidanzata? Sai, non me ne ero accorto. Ah, davvero? Io ti mangio vivo. Dice: ma no, dai, ti prego, questa ragazza magari le voglio bene, non voglio tradirla, ma dai, fammi almeno provare, funziona così, fammi provare. E dice: vabbè, prova un po'. E in quel momento tu gli mandi l'SMS, sto qui con le vallette, le cose, è chiaro che da una parte c'hai un autotreno in corsa che sta per schiacciarti e d'altra parte c'è la leggerezza su una nuvola, stare nel momento più bello della tua vita, e ha detto: vabbè cara, vai, sposati, trovati anche te uno che ti sposa, ciao. Sì, ma ancora ci stai pensando? No, quanto sto pensando fa, alla tua analisi. 2012, 4 anni fa. Tu ancora c'hai in mente? No, io ti sto raccontando una cosa del mio passato, sì. Non ci penso. Ma ci sono stati altri uomini. Dovresti averla cancellata. Non è vero che ci sono stati altri uomini? Sì, ci sono stati altri uomini. No, non è vero, sì, è vero. Dai, Susi, tu dai, poi hai fatto chiodo scaccia chiodo. No. Sì, sei cominciata a concederti al primo venuto per dimenticarlo. No. E qual è stato il primo chiodo scaccia chiodo? Poi ti lascio in pace. Oddio, un incontro sul treno. Tornando dalla Spagna? No. Dopo... Quanto tempo? Dopo un bel po' di tempo. Quanto? Mesi, che ne so. Quanti? 5 mesi, non me lo ricordo. A 5 mesi a stecchetto sei stata? Ma sono stata bene, cioè... Sì, perché il ricordo lancinante ti rendeva anestetizzata da ogni tentazione. No, nel senso che mi sono goduta anche un po' di... Sei goduta il livore e il rodimento di questo t'ha lasciato? No. L'hai cercato? Siamo di nuovo amici, non è, non ma come fai amico con uno che hai amato? Dai, su. Io sono amica di tutti quelli con cui sono stata. Allora non li hai amati davvero. Vabbè, è arrivato qua. Dai, su. È arrivato il filosofo. No, che c'entra? Dipende da come ti lasci anche. Dipende da come stai insieme, come compagnetti di scuola, ti devi sposare, i figli. Allora, c'è stato un periodo, come dire, di elaborazione in cui non ci siamo cagati. Però poi ci siamo ricontattati. Però lui si stantuffava l'amica nel frattempo. Ma ancora adesso sta con lei. Quindi quello è un vero amore, altre storie. Però. Questa non le chiede nulla. Però adesso dice: ci sono e basta, quello che vuole un uomo. Dopo, come dire, il superamento del dolore, sì. Adesso ci vogliamo molto bene e ci anche confidiamo. Pensa che tristezza. Dici: sai cara, oggi sono stato con un uomo, però non è che mi sia piaciuto molto. Dice: sì, davvero, interessante. No, ci confidiamo cose un po' più tipo non so, mi sono innamorata, oppure non solo. Io trovo sia masochismo dire a un ex mi sono innamorata. Comunque ognuno gode della sua vita come vuole. Masochismo puro. È un oltraggio totale se ammesso ci sia stato qualcosa fra di voi. Ma quindi tu non ti sei mai innamorato, disinnamorato e poi diventato amico della tua ex? No, mai. Ok, Che io non so, forse mi sono mai innamorato, questo non lo so. Questo è probabile. Non lo so, boh, ma non... Ti conosco poco. Comunque sia, se nella vita ho mai tenuto a qualcuno, mai più nella vita avrei voluto mai più vederlo. No, scomparsa no, no, totale, no, no, cancellazione, damnatio memoria. Ma che schifo, rivedere una persona che non ci sta più assieme e a cui hai voluto bene? Ma stai scherzando? No, io continuo a volergli bene. Vabbè, ma vuol dire che era un rapporto da fidanzatini del tempo del liceo. Dai, ti saluto, me ne vado, addio. Non fare con la faccia delusa, il mondo è così, è crudele. Okay. Fattene una ragione, ciao. Ciao. È tanto che non incontro più il nostro amico genovese viaggiatore, l'Indiana Jones dei Caruggi, come molti lo amano definire. Non lo so, non lo incontro più, non transita più per le mie tratte, non lo vedo più e un po' mi manca, come manca a tutti voi. Può essere che riappaia o può essere che magari ormai è rimasto invischiato in uno dei suoi viaggi avventurosi, in una delle sue terrificanti e mirabolanti vicende. Sono sicuro che lo rivedrò un giorno e sono sicuro che avrà cose da raccontarci, però nel frattempo scorgo un altro viaggiatore. Voi direte, da cosa ti accorgi che è un viaggiatore? Mi accorgo dal suo sguardo. Dal suo sguardo disattento alle persone che ha intorno, al suo sguardo assorto fuori del finestrino, perso in un paesaggio che non è quello, sempre uguale, sempre in movimento, sempre è attenuato dalla nebbia di questa mattina, che vede al di là del finestrino ma sembra vedere ancora oltre. E quindi capisco che quello è lo sguardo del viaggiatore, di quello che non è mai contento del posto in cui si trova, quello che appena arriva già progetta una nuova partenza verso un posto che non ha assolutamente nessun motivo razionale per essere visitato. Ma il viaggiatore è fatto così, non può mai fermarsi, non può mai star fermo, non può mai soffermarsi a guardare quello che ha intorno, e quindi è la persona adatta per cercare di riempire il vuoto del nostro Indiana Jones dei Caruggi. Quando ha cominciato a fare i viaggi veri, cioè allontanarsi veramente da solo? Paese dove sono nato io, le famiglie principalmente lavoravano all'estero, però viaggiavano con tutta la famiglia e tornavano magari anche dopo un anno, due anni, così. Cioè un lavoro in trasferta, sceglieva il lavoro di andare in trasferta, ecco, che avesse mandato in trasferta. Esatto, era quello lo scopo principale, era quello, la grande avventura. Difatti ho realizzato questo sogno qui, perché poi ho cominciato a viaggiare veramente per delle ditte importanti e ho cominciato ad andare all'estero. In Portogallo, all'epoca dell'ultimo colpo di Stato che c'è stato. Poi sono andato in Nigeria, sono andato in Francia, sono andato in Centro America, diciamo, ho fatto un po' di viaggi. E quanto si ferma di media in un paese? Ma diciamo in base al cantiere, in base alle esigenze, ci sono dei cantieri che durano anche 5-6 anni, dei cantieri che durano 3 mesi, dipende in base all'esigenza del. Però sono stato anche un anno, 6 mesi, 3 mesi, una settimana. Il treno va. Bentornati a bordo. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Ecco, ma lei quando va in un posto diverso si integra, assume, diciamo, i comportamenti, le usanze delle persone che trova, certo, oppure rimane se stesso e se ne sta per conto suo? No, cerco sempre di adattarsi. Di adattarmi, certamente, perché se si rimane fuori dalla. E dove le è stato più difficile adattarsi? Beh, diciamo, nei paesi arabi, diciamo. Mi racconti un po' qualche difficoltà? Ma la difficoltà è quella del, diciamo, dei proibizionismi che esistono in certi paesi, che non ti permettono di. Cioè non può bere, ecco questo. Sì, non puoi bere, non puoi andare in certi locali, magari devi ascoltare anche certe conversazioni che non. Ci sono molte differenze. Beh, è chiaro. Rispetto a noi, cioè. Adesso uno è un po' più portato perché ha più conoscenza, ma all'epoca era abbastanza difficile. Cioè se ne sapeva meno e quindi lei scopriva mondi nuovi. È chiaro, ne sapeva meno, era anche più interessante viaggiare, cioè, a quell'epoca lì. Però è chiaro che a quell'epoca, quando uno viaggiava per delle ditte, viaggiava per delle ditte c'erano un po' delle imposizioni, delle regole. Cioè di starvene lontani, non familiarizzare troppo, non creare problemi. Sì, c'erano i viaggi di rientro che erano, diciamo stabiliti, non è che uno poteva rientrare quando voleva. Vi toccava starci, quindi il periodo che stavate lì fermi, non esiste. Toccava starci o abbandonare, come ho fatto io tante volte non mi andava, abbandonavo, me ne venivo via, non è che ci pensavo due volte, diciamo. Ci sono stati dei motivi invece che si è trovato proprio bene, era proprio contento di starci? Ma sì, io in Portogallo sì, sono stato benissimo quell'epoca lì, anche perché sì, era uno dei primi viaggi, sì. Diciamo che appena sono arrivato c'è stato subito l'ultimo colpo di stato, quello dei colonnelli, e sono stati 4 giorni chiusi in hotel, appena già come arrivo, come inizio, diciamo. E perché? E per la sicurezza, perché io ero a Porto, la città era, diciamo, blindata, c'erano i mezzi di sicurezza che giravano per il paese. Noi che eravamo ospiti appena arrivati non ci facevano uscire, diciamo, per sicurezza. È andato in posti pericolosi pure? Sono andato, diciamo, posti pericolosi, sono stato imbarcato in Centro America, a Bonaire. La differenza lì è che ero su un ponte di lavoro dove si facevano estrazioni di sondaggi per sul mare. E quanto tempo c'è stato? E lì sono stato 6 mesi. Cioè 6 mesi era imbarcato? Era abbastanza vicino all'isola, non era lontano. Quindi ogni tanto andavate all'isola, che facevate all'isola? Sì, una volta alla settimana. E lì che succedeva? E lì, diciamo, c'era di tutto. Ma no, a quell'epoca lì c'erano delle piccole sale da ballo, così, poi c'erano solo che si parlava questa lingua qui, era Nederlagantille, si parlava questo papiamento con la lingua locale che d'altronde. E come faceva a imparare la lingua delle Antille in pochi mesi? È impossibile. Come faccia a farsi capire? E lì, ma difatti eravamo un po' a. Cioè, voi scendevate da questa diciamo piattaforma, dove facevate i sondaggi, le estrazioni, non so bene. Una volta a settimana andate in un'isola, chi va voglio capire esattamente come funzionava. Andate nelle sale da ballo, ma come facevate a chiedere alle persone di ballare se non sapete la lingua? Sì, vabbè, sì, si andava. Diciamo che lì poi esiste il gruppo che si diverte da solo, cioè ha pochi collegamenti con... Sai che botta di vita, tutti uomini che lavorano sulla piattaforma. C'erano tante donne anche, perché come sa non serve neanche parlare poi per le donne erano locali, però voi, sì, certo. Allora, voi rudi marinai, estrattori, esatto. Scendevate e vi aspettava un comitato d'accoglienza, esatto. Adeguato alla vostra presenza, certo. E come erano le ragazze locali? Ma diciamo, le ragazze locali erano orribili, diciamo, però erano invitanti. Quando si stava in mare andava bene tutto, diciamo, bastava divertirsi, bere qualcosa, che era sempre troppo. Quindi tornavate sempre ubriachi la sera? Ma si ritorna, diciamo che io anche una sera non sono proprio ritornato, perché mi sono trovato la mattina dopo sotto una panchina che dormivo, perché chissà cosa avevo macinato, cosa avevo bevuto, diciamo. Si informano i signori passeggeri che fra qualche minuto passerà in carrozza il personale del treno per offrirvi un piccolo spuntino. L'Italia l'ha girata tutta, penso, ormai, no? Sì, l'Italia difatti l'ho girata da cima a fondo, solo che ho avuto un compagno di viaggio che era particolare, proprio... Peggio di quello con gli incubi, sì. No, era differente, quello lì, noi lo chiamavamo Luisito il piccante, perché lui mangiava di tutto, l'importante è che era piccante praticamente, era un tipo strano. Una fogna, mandava tutto giù. E cosa faceva questo qua? Ma questo, lui era un tipo che si è innamorato di una sudamericana e ha subito tutte le conseguenze. È come capita spesso agli italiani. Era italiano lui? È come capita spesso. Lui si era, diciamo così, gliel'hanno fatta conoscere per... E dove l'ha conosciuta? Per i soldi, perché era un po' messo male. E dove l'ha conosciuta questa? Ma l'ha conosciuta sempre qui in Italia. E lei da dove veniva? Lei veniva da Cuba. Ah, la sua era tipo italiano con la cubana. Quindi sì, se è innamorato, se l'è sposata. No, diciamo che lui non doveva ricevere dei soldi, se quei matrimoni che si fanno. Ah, sì, ecco, a pagamento, sì. A pagamento, alla fine quello che ha pagato è stato lui. Perché, diciamo, il patto era che lei pagava per essere cittadina italiana, così funziona. Ha avuto tutte le conseguenze del caso. Ma come funziona? Cioè, uno come fa? Trova la cubana e dice: ti do i soldi se mi sposi, così? No, lui tramite degli amici, tra virgolette, ha detto: guarda che qui c'è un affare, se tu hai bisogno un po' di soldi, questa ragazza è disposta a darteli. Posso dire onestamente, io non è che ho viaggiato come lei, è la prima volta che sento dire che una cubana paga per diventare cittadina italiana. Di solito gli italiani si vendono anche le mutande pur di portarsele in Italia. È esattamente il contrario, non so come ha potuto credere una panzana del genere, perché doveva pagare, quando basta che scende ne trova decine di italiani pronti lì a vendersi casa, moglie, figli, tutto per la cubana. Ma questo ci ha creduto. Questa ragazza qui era già qui in Italia da molto tempo, non aveva la cittadinanza. È una professionista, sapeva. Però aveva il permesso di soggiorno così. Lui non è disposta, pur di avere la cittadinanza, sposando un italiano, gli dava 3-4 mila euro, adesso non so quanto. Sono pochini per compromettersi la vita con la cubana, devo dire. Per 3 mila euro uno che ci fa. Per lui erano tanti, perché la misura che aveva era quella, cioè 3.000 euro gli sembrava. E quanto ha lasciato invece sul tavolo con questa avventura? No, sul tavolo sta pagando ancora adesso. Quello volevo dire, quanto ha lasciato? Tutto. Sta pagando ancora adesso, perché non si è mai liberato, è sempre lui paga l'affitto, la moglie vive con un altro, tutto sto e mantiene il figlio. Cioè ancora piange, e la cubana, figuriamoci, è già scomparsa. La cubana è a New York, adesso non è più qua. E continua a pagare lui. E lui continua a pagare l'affitto per mantenere il figlio, tutta questa cosa qua. Cioè. La moglie la sta facendo pagare in tutte le maniere, naturalmente. In tutte le maniere. Vabbè, fa parte del gioco. È una storia che non finisce più. Questo è un tipo buono, ma è un po'... Vabbè, si è rovinato la vita. Lui se le cerca proprio. Si è proprio rovinato la vita, non avendo nulla in cambio, poi fra l'altro, figuriamoci. Lui, quando eravamo in giro per lavoro, appena prendeva 4 soldi, la prima cosa che cercava... La cubana. A Verona, a Padova, a Roma, da qualche parte. Gli mandava... Cercava la Western Union per... Per mandarle la cubana. E che raccontava di lei? Cosa diceva? Che era innamorato? No, diceva che praticamente lei gli ha dato tutto quello che la vita non gli ha dato. Praticamente gli ha dato un figlio e lui è quello che cercava. E si è realizzato in quel modo lì. Ah, era solo questo? Era. Vabbè, figlio poteva fare anche con un'italiana. Però gli costava meno, gli costava. Ah, gli sarebbe costato meno, sì, sicuramente, però. Cioè, sono quei tipi che non ascoltano altre persone. Dalle mie parti dicono culo che non vide mai camicia, evidentemente. Non era molto abituato a destreggiarsi con le astuzie femminili, con le giuste maniere che una donna, essendo sempre in una condizione di subalternità, per rivalersi su un uomo. Ha trovato uno disponibile, l'ha spremuto come fosse una mozzarella. Senta, a lei mai è capitato qualcosa del genere, di star per lasciare sul tavolo tutto per una storia d'amore? Ma sì, mi è capitato anche a me nel periodo, però non ho lasciato niente. Si è salvato, ho lasciato, però. Ho lasciato pochissimo. E dov'era? Dov'era questa signora? Perché mi sono ravveduto. Ma dove? Di che parte del mondo le è accaduto? Ma non mi è capitato qui, diciamo, in Italia. Beh, è assurdo, uno gira il mondo, passa attraverso le insidie più insidiose e si va a rovinare con un'italiana, come un geometra qualsiasi, ma è assurdo. No, però nel mondo mi è capitato che mi hanno tirato dei trabocchetti, però non ci sono mai cascato. Lei era scafata. Lei, quindi, uno ha l'occhio più vigile quando sta in trasferta, quando sta a casa è più facile che cada preda delle illusioni. Sì, perché si rilassa, a casa si rilassa e viene. Poi dipende anche dei periodi che uno viene, in cui si trova, diciamo, nel momento in cui i momenti che è più fragile. Beh, senta, questa parte qua gliela chiedo un'altra volta, perché tanto so già che la rincontrerò, visto lei viaggia molto, viaggio molto anch'io, è statisticamente certo che ci rincontriamo. Quindi alla prossima volta, a presto. Grazie, arrivederci. Il treno va. Ormai ho deciso che il momento dell'audiolettera d'amore lo passo nel vagone ristorante. È lo scompartimento migliore quando si è lontano dall'ora pasti, quindi non c'è quell'odore di minestrone riscaldato, di roast beef ripassato per la decima volta sulla piastra, di vino di cattiva qualità stappato e bevuto nel calice di plastica. Odio tutti gli odori che vengono da qualcosa che sia commestibile fuori del contesto di una piacevole occasione per mangiare assieme una persona, due al massimo, già tre sarebbero troppe. Uno scompartimento pieno di persone che biascicano è quanto di più lontano dalla soddisfazione, felicità e serenità che io possa concepire. Ma quando sono in un momento di vuoto, in un momento lontano ai pasti, è il posto migliore. stai seduto comodo, ci sono poche persone. Puoi sgranocchiare qualcosa che ti va, puoi guardare tranquillamente davanti, dietro, sopra, sotto e poi osservare nel tuo tablet quella che è la lettera e il dilemma d'amore che ti viene sottoposto. Ormai ho capito che si è creata una consuetudine. Le persone mi scrivono facendo riferimento alla persona che mi ha scritto nella puntata precedente, nel viaggio che ho lasciato alle mie spalle una settimana fa. In questo caso si parla del riaffiorare dal fiume procelloso della vita dei cadaveri delle persone che una volta si è amati, che una volta, con le quali una volta si è condivisa una passione. Ne ho parlato la settimana passata e me ne parla con tenera, timida ed eccitata apprensione una sposina che ha qualche dubbio. Caro Gianluca, mi ha fatto sorridere e amaramente riflettere la lettera che hai commentato nella trasmissione di domenica scorsa. Una donna che spiegava come avesse ritrovato un'inaspettata confidenza col suo ex proprio nel momento in cui non ci stava più insieme. Un po' come questa tua ascoltatrice, mi ritrovo in questi giorni con una sensazione ambivalente che non so sciogliere. Sono una 34enne sposata e convivente da 5 anni con mio marito, un mio coetaneo, da cui ho avuto anche un figlio. Prima di lui, 9 anni fa circa, ai tempi dell'università, sono stata fidanzata con un mio compagno di studi per 2 anni. Lui era un ragazzo molto passionale, ma anche terribilmente geloso e possessivo, al punto che non ce l'ho più fatta. Era diventato un incubo, mi chiedeva sempre che cosa facessi e dove fossi e voleva anche che gli rispondessi subito. Una volta è arrivato al punto di chiedermi di farmi un selfie per dimostrargli che ero a casa. Insomma, l'ho mollato prima di esaurirmi. Quando ho conosciuto l'attuale mio marito, ho trovato subito in lui tutt'altra persona, equilibrata, presente ma non invadente, serio. Insomma, il classico bravo ragazzo che piace anche alle suocere. Cara amica, hai fatto una scelta che prima o poi tutte le donne fanno. Ti sei trovata il bravo ragazzo. Quello che piace a tua mamma, quello che piace alla tua famiglia, quello che in fondo ti dà delle serie e motivate e fondate convinzioni che con lui potrai avere una vita normale, quindi serena, quindi tranquilla, quindi fatta di piccole cose che comunque ti danno quel carezzevole senso che la vita procede, che la vecchiaia è lontana, che potrai fare tutte le cose normali che in fondo hanno fatto i tuoi genitori, che fanno i tuoi amici, le tue amiche, che insomma ti fanno felice, che insomma ti rendono soddisfatta, che insomma sembrano dare un ordine alla tua vita. Ma tu sai benissimo che i cadaveri tornano sempre a galla. Soprattutto quelli che fanno parte di omicidi che noi abbiamo compiuto, di cui siamo i responsabili. E in realtà questo tuo ex amante, così irruento, così geloso, così fastidioso, così morbosamente e visceralmente attaccato a te, in qualche maniera rappresenta un ricordo, se no nemmeno te lo ricorderesti, nemmeno lo evocheresti, nemmeno lo tireresti in ballo di fronte alla figura cristallina del giovane bravo ragazzo, equilibrato, presente ma non invadente, quindi non è geloso, quindi puoi farti i fatti tuoi, a lui non importa niente perché è superiore, e quindi soprattutto serio, un bravo ragazzo che piace alle mamme e a casa delle suocere alle quali tu probabilmente piaci. Tutto bene? Non tanto, perché 4 mesi fa il mio ex si è riaffacciato, mi ha trovata su Facebook e poi da lì abbiamo cominciato a risentirci. Lui appare molto cambiato, molto meno irruento di una volta e più pacificato con se stesso. Mi ha fatto piacere risentirlo, ma poi la cosa ci ha preso un po' troppo. Si sente che ancora qualcosa tra noi c'è, un qualcosa a fior di pelle. Attualmente, poi, non posso nascondere che la mia vita coniugale è sessualmente inesistente. E questo mi pesa. Forse per questo riprovo attrazione per un uomo a cui sicuramente non è mai mancata la passione? Mi sto cacciando in un guaio? Il mio ex mi vuole vedere e non solo. Me lo ha fatto chiaramente capire. Del resto lui non è sposato e posso anche capirlo, non ha niente da perdere. Il problema invece è tutto mio. Se accetto di vederlo, poi che farò? Se succede quello che dovrebbe succedere, come reagirò? Sia che la cosa mi piacerà, sia che non mi piacerà, mi ritroverò a gestire il senso di colpa. E se invece il mio ex fosse in questo momento della mia vita un'occasione per avere la forza di separarmi? Eppure io non sto male con mio marito, se non per questo aspetto legato al sesso, che però non è trascurabile. Cosa devo fare, secondo te? Tu mi chiedi di darti delle risposte, come spesso accade, quando già te le sei date, già hai una certezza in te. Ti faccio una citazione di un libro, anche se non è proprio nelle mie corde. La farò sbagliata, incompleta e probabilmente superficiale, ma io sono fatto così. Leggo soltanto per dovere, mai per piacere. Leggo in maniera veloce, superficiale, però ho dei punti fermi nelle mie letture e ricordo il romanzo di Jorge Amado, che è un grande romanziere brasiliano, che è la storia di Donna Flor e dei suoi due mariti. Donna Flor è una bella donna, come te probabilmente, non so se sei bella, ma comunque, che ha avuto un passato passionale con un pazzo, un puttaniere, un grande trombatore, grande folle, che è il primo marito di Donna Flor, che la faccia fremere e probabilmente la opprimeva, la cornificava, le faccia le peggiori cose, però carnalmente era molto legata a lei. Lui un bel giorno, durante il carnevale, vestito da donna e con un enorme fallo sintetico fra le gambe per simulare qualcosa di paradossale, gli prende un colpo, non ricordo bene, un infarto, muore. Insomma, muore. Il primo marito di Donna Flor muore, esattamente come è morto il tuo primo irruento amore, che probabilmente rovinava la tua vita. Poi cosa fa Donna Flor? Donna Flor si sposa un secondo uomo, che è esattamente la copia dell'uomo che tu hai detto. Un uomo serio, compito, educato, l'opposto del primo uomo, che addirittura programma i suoi incontri amorosi presentandole una sorta di scaletta: noi ci congiungeremo in questi giorni, in queste ore, in questa maniera e via dicendo. Devo dire falso dovere, fino a che riappare, come appare esattamente a te, il fantasma del primo marito. Gli appare, non si sa bene se è una visione, se è una realtà, se è un sogno, è un'allucinazione. Beh, incomincia Donna Flora a far l'amore anche con il primo marito. Ritorna nuovamente questa passione che tu sai bene, che conosci, che immagini, non vedi l'ora di vederlo, sai, se lo vedrai ti strapazzerà sangue, sarà qualcosa, ti riporterà immediatamente al passato. Probabilmente non starete assieme, tu sai benissimo che lui non vuole te, vuol soltanto prendersi una rivincita, vuol soltanto riappropriarsi di quello che si è perso in questi anni, vuol soltanto darti un segnale che ancora c'è, ancora lì, ancora gagliardo, magari simula, magari ancora più infame di allora, ma sai benissimo che ti farà contenta, ti farà fremere, ti ridarà quella che il secondo marito in realtà non ti dà più, perché sai, non si può avere tutto. Tu sai che il bravo ragazzo in realtà è sempre il perdente, è quello che apparentemente vince nella vita, ma è quello destinato sempre a soccombere. Il cadavere dell'infame che riemerge dal tuo passato ti farà riflettere e probabilmente cambierà la tua vita. E quali sono le tue alternative? Beh, le tue alternative sono mettere in crisi ciò che è già finito, naturalmente, e decidere tu vuoi una vita di soddisfazione, quindi lasciare questo marito, farai una vita d'inferno, sarai sola, passerai d'infame in infame e ti troverai in un'età avanzata che avrai esaurito la tua carica attrattiva e sarai sola. Ti tieni il marito farlocco, come fanno la maggior parte delle mogli, e ti lasci andare a momenti di piacere, come faceva esattamente Donna Flor. Puoi farlo per un certo periodo, lo farai finché ti andrà, non avrai sensi di colpa se non la prima volta. Il senso di colpa si lava via, è qualcosa di leggero, è una cosa come i brutti pensieri, una volta che uno se li è levati, poi non tornano più. Avete ascoltato Il treno va, conversazioni in viaggio con Gianluca Nicoletti, a cura di Fabrizio Intonti, sound designer Luigi Speciale.